Segura! Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, hey. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos, vamos, vamos a bailar. Bailar la danza del mondo, vamos a bailar la danza del vento che spazza via le nuvole e libera il mondo da ogni giustizia, da ogni tormento. Vamos a bailar la danza del mondo, vamos a bailar la danza del vento che spazza via le nuvole e libera il mondo da ogni giustizia, da ogni tormento. Vamos a bailar la danza del mondo, vamos a bailar la danza del vento che spezza via le nuvole e libera il mondo da ogni ingiustizia, da ogni tormento. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar! Dall'Australia all'Oceania, dagli Urali alla Tanzania, sulle isole, sulle palafitte, sulle strade distrutte, nelle piazze d'Italia, di Spagna, nei palazzi della vergogna, nelle baracche della povera gente, nelle tasche di chi succhia il sangue, nei quartieri dove non ti fanno entrare perché sei diverso, diverso colore, nelle fabbriche sottosviluppate dove ti sfruttano le sanguisughe, nei salotti della televisione dove parlano per non dire. Vamos a bailar la danza del mondo, vamos a bailar la danza del vento che spazza via le nuvole e libera il mondo da ogni ingiustizia, da ogni tormento. Vamos a bailar la danza del mondo, vamos a bailar la danza del vento che spazza via le nuvole e libera il mondo da ogni ingiustizia, da ogni tormento. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, a bailar, hey. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos, vamos, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, a bailar, hey.